Parte puntuali 8.02 minuti per questo voltiamo pagina mercoledì 28 giugno, ultima puntata per il sesto mese del 2023, già preparata la playlist curata da Silvia Albertazzi, la formazione è completa, saluto anche Stefano Calanchi e si parte, buongiorno Silvia. Buongiorno a te, a tutte e a tutti. Abbiamo già registrato i due video della settimana perché oggi la giornata è veramente densa di appuntamenti culturali al quale il Breakfast Club poi riporterà amplificazione in frequenza e non. Per quanto riguarda l'aspetto letterario, sul nostro sito www.radiocittafusico.it, quindi a breve avrete anche la sintesi dei lavori da noi presentati. Intanto che presentavo il mio, volevo partire dicendo ancora due libri molto belli, poi ho detto oddio, aspetto essere così carico di entusiasmo perché magari Silvia, che è un pochettino più lucida per quanto riguarda gli aspetti così di giudizio estremamente entusiastici, non è così carica come lo sono io per il lavoro da me selezionato, e quindi ti lascio la parola per andare oltre mare. Beh, bello il titolo, oltre il mare, titolo sì. È bello, ecco, poi lascio a te altra descrizione. A me piace anche la copertina. Sì. Molto minimale ma essenziale. Dunque, il romanzo si chiama appunto Oltremare ed è scritto da un autore irlandese, Paul Lynch, edito da 66th and Second. E l'ho detto tutto bene. Perché ci impappiniamo noi bolognesi. No, a dire su questi six sì. And seven. And second. And second. È un libro molto, molto particolare. Parentesina, noi presentiamo sempre libri belli. Certo, ma a volte può capitare, cioè, che magari questo mi è piaciuto un po' meno. Non sono tutti capolavori, ecco. Perché capolavori ce n'è pochi, però ci stiamo bene attenti a non presentare delle ciofeche. No, ricordo di una volta che hai detto ok, adesso presento un libro brutto, e la corsa per rispondere al quiz per averlo è stata veramente sì, molto intensa. Io ricordo anch'io quella volta, perché quel libro brutto era un libro molto molto pruriginoso, diciamo. Ah, quindi è vero, secondo me la corsa era per vedere per gli aspetti un appunto pochettino proibiti. Allora, no, questo invece non è affatto pruriginoso, ma è a suo modo alquanto inquietante. È la storia di un naufragio. Abbiamo un pescatore molto esperto sulla quarantina che a un certo punto decide di andare fuori a pesca in una notte in cui è prevista una grande burrasca, in cui tutti lo sconsigliano di partire. Lui invece dice che è il momento giusto per fare un ottimo bottino e parte. Il suo compagno usuale non lo segue, ma gli manda un ragazzino a fargli da spalla. Un ragazzino che non ha mai pescato in mare alto, siamo nell'oceano, siamo nell'America del Sud, nell'oceano. E quindi si tratta di andare a pescare in alto mare sull'oceano, l'oceano Pacifico se non sbaglio. Con prevista burrasca. Con prevista burrasca di notte. Il ragazzo parte di malavoglia e, ripeto, non ha mai fatto un tipo di esperienza del genere. Lui pesca soltanto sulla costa. Il vecchio, chiamiamolo vecchio, insomma. L'esperto. L'esperto è molto seccato che gli mandino questa matricola e lo tratta anche abbastanza male. I due partono guardandosi in cagnesco, quando hanno anche pescato parecchio in effetti, ma quando sono quasi sulla via del ritorno la burrasca boom, si scatena e in effetti loro si trovano sballottati in mezzo alle onde e finiranno alla deriva in altissimo mare, dove nessuno può pensare di andarli a cercare. E si trovano in questa condizione, perché poi gli finisce anche il carburante, quindi alla deriva completa, sotto il sole cocente di giorno, freddo gelido di notte, per un periodo di tempo che è più di 2 mesi. Periodo lunghissimo. Almeno hanno pescato, no? No, ma hanno dovuto buttare tutto le zavorre, le hanno per buttate. Motivi di peso, giusto? Quindi hanno anche il problema di cosa mangiare, come procurarsi da mangiare, cosa bere e via come coprirsi e via discorrendo, nonché come sopportarsi, perché chiaramente ci sono questi attriti abbastanza forti. Il vecchio non sopporta, per esempio, l'estrema religiosità del giovane che nei momenti più tragici si affida alla Madonna, a una specie di Madonnina fatta col fil di ferro. E lui prega. E il più anziano gli fa anche dei dispetti veramente antipatici. A un certo punto lui, il ragazzo, finché c'è batteria, continua a guardare il suo cellulare dove ha la foto della sua fidanzata. Il vecchio, quando dorme, gli butta via il cellulare. Ma che cattivo! Perché gli dà fastidio che questo non lo aiuta. Lui gli dice che cosa deve fare, il ragazzo è inchiodato dalla paura e non lo aiuta. Poi poco alla volta cominciano a trovare un modus vivendi secondo il quale, diciamo, il giovane vede in qualche modo una figura paterna, burbera quanto vuoi, ma paterna nel vecchio. E soprattutto il vecchio, che è veramente chiuso in una sua corazza di rigore, si lascia intuire piano, non si apre, ma lascia intuire piano piano che nella sua vita c'è un segreto in famiglia, insomma, che l'ha reso appunto quello che è. Così duro. Raccontato così sembrerebbe una parabola psicologica. C'è anche questo, ma è direi sullo sfondo. Quello che veramente è in primo piano è il racconto del naufragio minuto per minuto, con tutto quello che comporta trovarsi in una situazione del genere, raccontato senza nessuna concessione al bello stile, ai barocchismi, al melodramma o altro, in maniera molto molto sintatticamente dura, sintetica, paratattica, e tutto questo porta a un prima di tutto permette a chi legge di sentirsi su quella barca, per quello che ti dicevo è un romanzo a suo modo molto inquietante. È bello ma inquietante, perché l'hai detto subito. Mentre lo leggi ti senti in quella situazione, dici oddio, adesso cosa mi succede? E ti senti quando il vecchio il più anziano prende finite le scorte di cibo, cattura degli uccelli e dice adesso dobbiamo mangiare la carne degli uccelli, tu ti senti come il giovane che dice no, a me fa schifo, certo. Io non ce la faccio, e poi alla fine sarà costretto a farlo. Per forza. Esattamente. Però guarda che è una caratteristica importante per un autore avere la capacità di portarti dentro. No, questo ti porta veramente dentro. Lo fa anche con una discreta, in certi punti, una discreta violenza, non tanto fisica quanto anche psicologica. Nel risvolto di copertina c'è scritto che è stato definito il Cormac McCarthy irlandese. Ecco, io non ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, mi sono sempre tenuta un po' alla larga da McCarthy perché so che è molto violento, e chiunque, anche i suoi massimi estimatori, giorni fa parlavo con un ragazzo che si è addirittura fatto una tesi di dottorato su McCarthy, mi dicevano sì, hai fatto bene, perché in effetti ci vuole uno stomaco molto forte. Ecco, non siamo a quei livelli. Credo, l'hai letto, quindi. Sì, però c'è una sorta di violenza psicologica che ti prende. Posso capire perché l'abbiano definito così, anche perché è scritto veramente bene. E già questo è un valore importante. Ah, ma come dicevi tu, certo, se non fosse scritto bene, non ti porta dentro. Non ti avrebbe portato dentro così. Ed è un'avventura o disavventura di cui appunto i percorsi sono molto inquietanti e precari in alto mare. Già solo questa ambientazione mi porta a dei pensieri quanto mai di terrore, paura per una costrizione sulla quale non puoi intervenire se non che in maniera molto labile e molto precaria. Io manderei un po' di musica. L'autore è Paul Lynch, irlandese. Vediamo se sì, ho seguito bene sì, le tue prime direttive, perché mi ha portato dentro il libro anche la tua presentazione, quindi non vorrei esserne distratto. Sì, irlandese. Matt Elliott è il primo brano selezionato in questa tua playlist. Posso dirti perché? Certo. Allora, tutti i brani che ho selezionato parlano appunto di mare e di alto mare. Questo c'ha un titolo che io non me lo ricordo a memoria, ma che è perfetto per questo libro. Se posso avere il... Vuoi dirlo dopo? Lo dico dopo. Dai, intanto lui è Matt Elliott e tutti i brani selezionati, ovviamente, e lo immaginavo, hanno a che fare con il mare e con essere in alto mare. A tra poco. Matt Elliott, buon ascolto. And even as we sail, this boat is listing with weathered storms. Without even thinking, but even as we speak, this ship is sinking. Our dial is cast in better days, but the compass points are all erased, and so we're forced to drift for days. Looks like the ship is lost again. Anchors ripped, the sails are tearing, and there is no clear way. See how we're faring, only the stars to check our bearings, and the witch's marks to bless our bearing. We'll batten down beneath the waves, talk and laugh and lust for days. Even Saint Nick would turn his face. This fucking ship is lost again. Dei principali autori di songwriting con un folk molto intenso, molto narrativo, ed è la colonna sonora in partenza questo brano di cui a breve sapremo il titolo. Lui è Matt Elliott. A me piace Matt Elliott, anche se è un po' fuori dai generi che di solito propongo. Lo ritengo un autore molto ispirato e talentuoso. Abbiamo ascoltato, Silvia? Abbiamo ascoltato I Name This Ship The Tragedy, Bless Her and All Who Sail With Her. Capisco che non potevi saperlo a memoria. No, però adesso ve lo traduco e dimmi se non sembra fatta apposta per questo libro. Io chiamo questa barca la tragedia. Siano benedetti infatti tutti coloro che navigano su questa barca. Ah, è perfetta, è praticamente la sintesi, tra l'altro l'aspetto duro del più esperto e l'aspetto anche spirituale del ragazzo più giovane sono contenute in queste due righe di titolo dal brano di Matt Elliott. Ricordiamo che il libro è in palio, come è in palio anche quello selezionato da me. È uno dei libri che aveva messo in palio Giorgio della Confraternita dell'Uva. Grazie Giorgio e lo salutiamo. A questo punto ti chiedo alcune cose. Siamo ambientati nel... perché ormai ci siamo tutti su questa barca. tutti su quella barca. Ai nostri giorni, tant'è che appunto questo ragazzo continua sempre a pasticciare col cellulare e dà fastidio. Ah, giusto, il cellulare. Potevo arrivarci anche dagli indizi che tu hai dato, ma l'inquietudine, il pensiero di trovarmi. E non l'hai letto, pensa se lo leggevi. No, ma guarda che dipende. Sono arrivato anche leggendo tante realtà in diverse epoche, in diverse ambienti. Dipende, può esserci anche un libro di qualsiasi genere, ma dipende come ti viene proposto. Tra l'altro il libro che presenterò io non è certo una mia lettura consueta, però ammetto appunto è come ti viene scritto e come ti viene raccontato. La label è molto particolare, a me piace molto, ho trovato dei libri di saggi dedicati allo sport, biografie di campioni. Hanno iniziato come volevano essere una casa editrice solo di materiale sportivo, quindi sì, romanzi ispirati allo sport o saggistica sportiva, poi si sono allargati. Sì, ho trovato anche delle biografie di grandi campioni della pallacanestro che sono quanto mai interessanti, la 66th and Second, anche io non l'ho pronunciata benissimo, ma quasi, insomma. Sì, sì. Non è un libro particolarmente, non è un tomo, ecco, no. Questo diamo descrizione. No, non è un tomo, saranno 200, poco più di 200 pagine. Un weekend. Però è... un weekend in alto mare. Sì, anzi sono meno di 200, sono 180 pagine. Però sono talmente forti che non puoi leggerne più di tante per volta. E non tutte d'un fiato, ecco. Appunto, perché, non tutte d'un fiato. Quindi un weekend, alla fine è un weekend che ti prostra un pochino. Da questa lettura. Questo non vuol dire... non toglie che, ecco, brava. Non vuol dire che sia un cattivo libro, anzi è un libro che io consiglio. A me ha stupito moltissimo. Come vedi è l'ultimo dei libri che ci aveva gentilmente offerto Giorgio, è l'ultimo che io ho e l'ho tenuto per ultimo perché non sapevo nemmeno se volevo leggerlo dopo, certo, dopo aver letto sulla copertina che era il Cormac McCarthy irlandese. Pensavo, mamma mia, magari sarà più... E anche nell'altro, nella biografia c'è scritto così, nel risvolto c'è scritto appunto che c'è tutta una serie di violenze, eccetera. Io, ecco, oltremare, c'è scritto nel risvolto, oltremare insieme un'avventura marinaresca violenta e inquietante... Per cui, figurati un po'. Era da questo risvolto, io un libro del genere non l'avrei mai letto, perché non mi interessano le avventure marinaresche, il violento poi men che meno. Invece è un libro che si fa leggere molto volentieri, però è un libro tosto, quindi sì, non riesci... cioè non ci vuoi poi stare più di tanto per volta su questa barca. Poi comunque entriamo nel gusto personale, perché ognuno ha la, certo, sua modalità e può essere anche chi ha la microsensazione che abbiamo appena descritto, che può essere divisiva, mentre invece per alcuni è motivo di appassionarsi ulteriormente. Io credo che sia un libro che possa in qualche modo, non dico piacere, ma intrigare qualsiasi lettore. Cioè, e questo è tantissimo. Incuriosire, appassionare qualsiasi lettore. È chiaro che poi ci sarà quello a cui scorre sopra più facilmente e che è meno così inquietato da certi elementi, e ci sarà anche chi invece, come me, lo legge centellinandolo, perché chiaramente eventi sconvolgenti ne prendi uno per volta. Un po' insomma, alla volta, certo. La cosa interessante è che appunto tu hai due personaggi alla deriva su una barca in mezzo all'oceano che parlano anche poco tra di loro, ovviamente non succede niente, sì. Purtroppo per loro non succede niente. Questo è un aspetto interessante. A me, io adoro i libri dove non succede niente. Non succede niente, lo dico subito. Non è che si saltano al collo o che improvvisamente esce un mostro marino. No. Non c'è solo la necessità di sopravvivere. Ah, è peggio che un mostro marino. E riuscire ad avvincerti con una storia del genere. Con questi ingredienti. Veramente. Bravo, è stato molto bravo. È una specie di se fossimo a teatro sarebbe un dramma da camera. Sì. Quelli dove ci sono che due si svolgono solo sì, dentro due una personaggi camera. In una stanza che parlano, tipo certe cose di Pinter. Ecco, chiaramente qui invece siamo in alto mare, ma la situazione è la stessa, due personaggi intrappolati in un luogo da cui non possono uscire. Alcune domande. Paul Lynch non lo conoscevi o avevi già avuto? No, non lo conoscevo assolutamente. Se vuoi ti posso dire che è nato nel 1977. Un ragazzino. Sì, è abbastanza giovane. E che la sua opera precedente, o le sue opere precedenti si intitolano Cielo rosso al mattino, Neve nera, che ha vinto dei premi in Francia, e Grace, premiato come miglior romanzo irlandese dell'anno. Bene, e questo è già un curriculum di tutto rispetto, direi. Complimenti a chi ha fatto ricerca per portare nelle librerie questo lavoro e ha dato la possibilità a curiosi, lettrici e lettori, su consiglio del Breakfast Club nel Voltiamo Pagina, di avere un arricchimento ulteriore nella biblioteca alla scansia Radio Città Fuji. Che io se mi immagino, vogliamo no, che ci completare sia il quadro. La traduzione, devo dire, traduzione ecco, ottima di uno dei migliori traduttori in circolazione, che è Riccardo Duranti. Perfetto, io intanto alleggerisco un po' salutando Sergio, che oltre al buongiorno scrive Nella testa di Willy, Il sole pallido su via Zanardi non c'è. Beh, direi che non c'è sempre comunque per quanto riguarda non c'è proprio. Non ho io la nuvoletta di Fantozzi, è un aspetto diciamo che riguarda tutti, e quest'estate non è che una mesta prosecuzione dell'inverno. Non esageriamo, insomma, ha esasperato per un giorno che c'è grigio. No, non sono d'accordo con Sergio, ma penso che la sua carica di ironia nel criticare giustamente il mio aspetto d'amore per il caldo estremo sia quanto mai azzeccata, ed è un'occasione per ribadire il 333-180-9494. Abbiamo uno stacco musicale sempre selezionato da Silvia o da Stefano insieme, dei due insieme. Io il Mateliot è tutta farina del mio sacco, gli altri li abbiamo selezionati collaborazione. Okay. Allora direi che è il momento del quiz. Sì, allora il quiz è, secondo me, è molto semplice, perché ci vuole poco per fare un pochino di ricerca e scoprirlo. Dunque, Paul Lynch è quindi un omonimo del famoso regista David Lynch. Infatti avevo paura di sbagliare quando lo ripetevo, vai. Di David Lynch la nostra Cineteca proporrà per il Cinema in Piazza un film. Io voglio sapere il titolo del film di David Lynch che verrà proiettato in Piazza Maggiore durante la rassegna di Cinema Sotto le Stelle. Quindi Cinema Sotto le Stelle, è stato selezionato un film di David Lynch che verrà proiettato in Piazza Maggiore. Al 333-180-9494, se scrivete il titolo avrete Oltremare di Paul Lynch, edito da 66nd Second. Stacco musicale Dirty Three in questo caso. Sì. Conosco anche loro, ma non ho neanche un disco. E mi pare che si intitoli Deep Water o qualcosa del genere. Adesso ci guardo. No, è la 8. Aspetta, perché per è sempre qualcosa che ha a che vedere col mare. Ah, sai che non la trovo. Adesso è guardo. È la terz'ultima. Beh, è arrivato un momento di silenzio perché non c'è nessun titolo che mi riporta. Sto guardando per bene. Ci sono due dischi addirittura. Sì, ma il secondo non si sa cosa il c'è. Il secondo è misterioso. L'abbiamo sentito ieri sera. Ascolta, perfetto, è il brano numero 8. Sì. Dai Dirty Three, mi hanno portato un po' di confusione, ma torniamo subito all'ordine. Intanto il brano è questo. Sì, E lui? Diciamo di sì. A tra poco. Sì. Intanto rispondete voi, non distraetevi come sto facendo io. Allora, confermo la bellezza della selezione, perché in questo brano si ha veramente l'idea del rollio, della bonaccia dopo la tempesta, nel sentirsi dispersi in mezzo a questa deriva. Però il titolo è Black Tide. Il titolo è Black Tide, Tide è l'onda, no? È l'onda, certo, l'onda è un'onda nera. E poi questo è un DVD, non DVD, scusa, è un forse CD. Forse c'è anche il DVD, ecco perché non lo senti. No, l'abbiamo sentito, okay. Però non ci sono i titoli. È un CD che si intitola Ocean Songs, quindi sono tutte canzoni ispirate al mare. E dedicate a ciò. Sì. Grazie Damiano, però la risposta non è quella. Ciao, sono Damiano, scrivo dal lavoro mentre raccolgo ciliegie. Ui, è un lavoro, è un po' come il gioielliere, perché con quello che costano, quindi onore al merito e buon proseguimento. Ah, raccolgo ciliegie in Francia, quindi addirittura. Sei oltre confine. Il film è Sperimentare l'incubo? No. No, non è quello il film di David Lynch. No, non è è un film atipico per David Lynch. E infatti per me è un capolavoro assoluto, è un film bellissimo. E non ci sono incubi. No, assolutamente, anzi c'è una ricerca su un mezzo molto particolare. La colonna sonora mi fa piangere solo a citarla, di Angelo Badalamenti. È di un autore, un musicista, veramente, per quanto riguarda la narrazione di David Lynch. Perfetto, mi pare sia arrivata però la risposta giusta. Intanto io ringrazio Damiano. Sono due film, Una storia vera e Inland Empire, però l'hai detto, quindi io darei il premio a questa ascoltatrice. Anzi, è stato più preciso, direi. Sì, adesso confesso, non so se Inland Empire lo facciano anche in Piazza Maggiore. Mentre io ho chiesto quello che facevano in Piazza Maggiore, che è una storia vera. Inland Empire lo fanno adesso per il cinema ritrovato, credo, ma credo che lo facciano nei cinema al chiuso. Sì. Poi, mentre Una storia vera, senza dubbio so che lo fanno in Piazza Maggiore. Bene, dopo queste indicazioni che sono utili anche per chi vuole andare al cinema. Esattamente, bene. Nel voltiamo pagina sapete che abbiamo chi anche è questa queste persona? Ah, quando scriverà il nome saprò dire. Sì, è stato molto facciamo appassionato. Facciamo i complimenti. È Nora. Alla Bene. Quale facciamo i complimenti. Grazie Nora, sei la vincitrice di questo premio per il primo selezionato da Silvia. 8:31 minuti, noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo in diretta per il Voltiamo Pagina. A tra poco! Complimenti, avete portato secondo me il disco più bello dei Robert Wyatt, questo disco Rock Bottom, secondo me è quello che almeno per quanto riguarda le mie selezioni è quello che al mio gusto piace di più, ma per quanto riguarda le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko sicuramente avranno intuito, oltre che un'attinenza e una grande raffinatezza nella selezione. Il brano è il primo, apre tutto il disco, il titolo è Sea Song, questa canzone del mare, per cui insomma le attinenze continuano per quanto riguarda il libro presentato da Silvia. Bello questo disco, bello tutto, bellissimo, sì. Bello tutto, sì. Uno dei lavori più belli per quanto riguarda il mio gusto, il mio preferito di Robert Wyatt. Dai, diciamolo, capolavoro. Sì, dai, sì, questo, questo per me è capolavoro. Sì, sì, sì, sì, senza dubbio. Allora, se sonorità di questo tipo sono nel mio esteso mobilone dei CD, vuol dire proprio che è un capolavoro, perché non è esattamente una sonorità che ha attinenza con le mie selezioni. Ciò non toglie, ovviamente. In questo caso il ringraziamento va anche alla libreria Ubik, collaboratrice di Voltiamo Pagina, libreria Ubik Irnerio a Bologna, Virnerio 27, e mando un ringraziamento, in questo caso sono i magazine che mi hanno ispirato la selezione che vado a presentare, anche questa fuori genere, ma ormai ho rotto questo steccato, genere diventa due, cioè quello che ti piace e quello che non ti piace. In questo caso la riscoperta di un autore definito l'ispiratore di Arthur Conan Doyle, in quanto una quindicina circa di anni prima dà la voce al protagonista, l'investigatore Maximilian Heller. Complimenti a chi fa questi lavori di ricerca, in questo caso è la Sellerio Editore, il formato è classico della Sellerio, quindi anche comodo, sono questi libri che puoi portare comodamente ovunque. Lui è Henri Couvain, un autore francese che purtroppo ha vissuto poco, 42 anni, ma ha dato voce e vita a questo personaggio molto particolare. Sarà uno dei primi per quanto riguarda la letteratura destinata a quello che è un motivo di investigazione, del risolvere il caso. Non dico che sia un giallo, perché esattamente un giallo non è, ma sicuramente è qualcosa che vi terrà incollati alle pagine allo stesso modo. Abbiamo un caso, un'ingiustizia molto grave, che è un'accusa che arriva sul capo di un servitore, una persona umile, un dipendente. Siamo nella metà del 1800, lui lavoratore a servizio di questo grande direttore di banca, che viene ucciso. Come viene ucciso? Viene avvelenato con l'arsenico. Maximilian Heller scopre che c'è qualcosa che non va in questa accusa, inizia ad indagare e risolverà ovviamente il caso. È un caso che diventa linea costante per quanto riguarda questo tipo di narrazione, in quanto le caratteristiche che le conosciamo, no? Deve essere ben identificato il protagonista, come Sherlock Holmes, misantropo, solitario, particolare, se ne conosceva bene l'indirizzo addirittura per entrare allo stesso modo e impersonificare il lettore con il protagonista. Ma altri aspetti, come quello geografico, non so, Nero Wolf è un cittadino del Montenegro, e Agatha Christie, quando diede voce a Hercule Poirot, tutti pensavano fosse francese, invece no, era belga. E allo stesso modo questo ometto coi baffetti, un po' non certo un atleta, aveva un nome invece altisonante: Hercules, Ercole. Il tenente Colombo, sempre con questo soprabito non certo tenuto in ordine, spiegazziato e non pulitissimo. Ecco, tutte queste identificazioni per gli investigatori autori sono diventate un po' delle regole letterarie che vengono rotte, se vogliamo, da Maximilian Heller, in quanto è un ex avvocato che interrompe la sua attività proprio per questo suo carattere estremamente mite, quasi arrendevole, e inizia a investigare sulle ingiustizie, sugli errori giudiziari o quelli che vengono, per così dire, accusati in maniera frettolosa solo perché sono poveri, sono disagiati, hanno delle difficoltà, delle miserie umane, come in questo caso un grande direttore di banca che viene avvelenato, incolpevole, viene subito identificato nel suo servitore. Beh, il protagonista Maximilian Heller, in queste pagine scritte da Enrico Uvò, che porta bella lettura e bella letteratura, porterà a trovare il vero colpevole. Detta così è molto immediata, certamente, però per le appassionate e gli appassionati di questo stile, conoscere la classe, ecco, la parola giusta è la grande classe di quest'autore, indubbiamente è una scoperta che porterà una voce in più, e oltretutto una voce, si dice, che abbia dato ispirazione ad Arthur Conan Doyle per Sherlock Holmes. Sherlock Holmes che è protagonista del quiz che voglio proporre per andare alla libreria Ubik a ritirare questo premio. L'investigatore Maximilian Heller, Enrico Voin è l'autore, Sellerio editore, la casa editrice, ribadisco, ottimo lavoro per la ricerca e la riscoperta di questi personaggi, questi scrittori dell'Ottocento che tanti sono e a volte avrebbero meritato un podio che purtroppo non hanno mai ottenuto. Al Voltiamo Pagina c'è invece, con grande attenzione, come chiedo attenzione a voi, per il quiz che vado a proporre. Sherlock Holmes più sbandato, più, diciamo così, dedito anche alle sostanze stupefacenti, misantropo, solitario, personaggio particolare, aveva una passione per uno strumento musicale. Se mi scrivete al 333-180-9494 di quale strumento musicale era appassionato Sherlock Holmes. Ecco, lui, intanto che meditava per le indagini più particolari e i casi più difficili, ecco, si dilettava e si occupava e stava vicino a questo strumento. Aspetto da voi la risposta al 333-180-9494. E che bella questa canzone che metteremo, quella di Bruno Lauzi. Perfetto. Questo è per alleggerire i toni. Ma ok. Per chiudere resta in allegria. Comunque un una capolavoro. Bella selezione, ecco. Povero me, povero me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Bizzarra e cattiva onda, su onda mi sto allontanando ormai. La nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. l'isola è, il clima è dolce intorno a me. Sono palme e bambù. Arriveremo alla conclusione con questa, secondo me, bellissima canzone, capolavoro, confermo. Allora, stanno arrivando diverse risposte. Con tutti gli strumenti potremmo fare una jam session, ma e dire che ci sembrava elementare Watson. Paradiso. Su Onda. Allora, torniamo in diretta dopo questa mia interpretazione. Ringrazio Paolo. Paolo, allora io ti volevo ringraziare anche per gli auguri che hai portato il 26 giugno. E mi piace pensare che da quello che hai scritto, auguri, auguri, anche se con un giorno di ritardo, mi piace pensare che tu sappia che il 25 giugno è San Guglielmo e quindi è San William, potremmo definirlo in questo modo. E siccome io ci tengo tantissimo all'onomastico, grazie di cuore, veramente, grazie. Sì, Veronica, Sherlock Holmes suonava al violino, esattamente, vediamo se riesco a premiare anche a te, ci sentiremo perché sei arrivata seconda, al primo posto abbiamo Lorenzo che ha scritto qualche minuto prima di te, violino, esattamente, bravo Lorenzo, brava Veronica, vediamo se riusciamo a portare due premi, sarete contattati a breve, ok? Possiamo anche così aggiungere un altro strumento che è il super campione che lo porta, il clarinetto, no? Il clarinetto è Dylan Dog. Beh, abbiamo scoperto che per i nostri ascoltatrici e ascoltatori Sherlock Holmes era un polistrumentista. Sì, bravo Marco, violino, ma sei arrivato un po' lungo. Vediamo altre risposte. Sportivissimo Luigi che dice io ho vinto l'altra volta, quindi sì, è azzeccata la risposta, ma è giusto che qualcun altro abbia la possibilità di ritirare. L'investigatore Maximilian Heller, Enrico Huben, Sellerio editore, e sicuramente sarà una bellissima scoperta o riscoperta. Bravo, grande onestà di Paolo. No, il mio compleanno è il 15 giugno invece, quindi hai messo un numero nelle decine di troppo. Il mio compleanno è il 15 giugno, il mio onomastico è il 25 giugno, onomastico al quale tengo tantissimo. Grazie comunque. Portato qui ritmi, canzoni e donne di sogno, banane, lamponi. Il libro precedente mi ha ricordato un film con Robert Redford alla deriva nell'oceano su un relitto ormai di barcavela, un po' angosciante, quindi adesso non mi viene in mente il titolo, è Luigi che ci scrive questo. Sì, adesso il titolo non lo ricordo neanche io, però di questo libro, di questo film parla a lungo Jeff Dyer nel libro che ho presentato la settimana scorsa. E ci sono attinenze, sì, vedi, collegamenti. Infatti. Grazie Silvia, noi dobbiamo salutarci. Aggiungo che il podcast sarà pronto domani perché sono pieno di impegni con conferenze e stampe. Però abbiamo già fatto il video. Abbiamo già fatto il video e anticipiamo anche Silvia che non ci sarai la prossima. No, purtroppo volta. Sono in impegno, sessione di laurea. Ok, devo quindi discutere delle buon tesi. Lavoro. Grazie. Noi ci risentiamo con Silvia tra due mercoledì, sarò da solo nel prossimo Voltiamo Pagina, domani doppio appuntamento in mostra, la rubrica regola d'arte dei 103.1, a breve l'edipeo enciclopedico. Oh, grazie per l'attenzione intanto, grazie per la partecipazione e la co-conduzione. Liberi Dentro, rassegna stampa e il grande rock di Nevio nel palinsesto mattutino di Radio Città Fujiko. Una buona giornata a domani, questo Voltiamo Pagina è stato curato e condotto da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao. Ciao ciao. A bordo c'era il ballo Onda, su Onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva Onda.